24 mattino. Ben ritrovati alle 8:17 minuti, è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. E c'è Deborah Rosciani, ben ritrovata. Sì, si sentiva già probabilmente già qualche rumore molesto. Microfoni accesi. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi torniamo a parlare delle carte di credito. Sì. Lo abbiamo già fatto, ma ci ritorniamo perché c'è qualcosa di interessante da dire. Sì, è vero. Abbiamo scoperto una notizia degli Stati Uniti che ci ha incuriosito molto. Come sapete, siamo nel mezzo di una crisi del credito che non ha precedenti dal dopoguerra e di una frenata dei consumi che rischia di far degenerare la recessione in corso. In depressione, una crisi che è stata provocata da un sistema finanziario che ha elargito credito troppo facilmente. Adesso c'è una marcia indietro perché abbiamo scoperto che American Express sta offrendo ad una fetta della sua clientela americana $300 perché tolgano il disturbo. Il termine ultimo per aderire alla proposta è stato fissato a sabato scorso, 28 febbraio. Chi ha aderito potrà chiudere i suoi conti rimborsando entro fine aprile quanto dovuto e riceverà in omaggio a maggio una carta prepagata con $300 spendibili ovunque. E insomma è stata una cosa che ci ha incuriosito parecchio perché al di là del pericolo scoppio della bolla delle carte di credito negli Stati Uniti, ovviamente visto che la crisi finanziaria ce la siamo portati anche negli Stati Uniti, quello che ci interessa capire adesso è se anche da noi questo pericolo può essere corso o meno, a che punto siamo. Ne discuteremo con Davide Stefanini, direttore generale di Visa Europe in Italia. Dottor Stefanini, benvenuto a Soldi Dintorni. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno anche a lei e naturalmente grazie anche di essere con noi a Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, la decisione di American Express, abbiamo letto, intende ridurre il numero dei clienti che non producono abbastanza reddito alla compagnia utilizzando la carta o che alzano l'esposizione a rischio perché chiedono di procrastinare i rimborsi periodici e quindi alimentano la quota dei pagatori morosi. Dottor Stefanini, cosa ne pensa di questa iniziativa di American Express? Ma penso che sia un'iniziativa del tutto lecita prima di tutto per quanto riguarda quella compagnia. È una iniziativa che ha un senso e una logica in un mercato come quello americano dove questo problema della esposizione eccessiva esiste. Mi sento però di rassicurare lei e tutti gli ascoltatori sul fatto che questo problema per esempio in Italia non è di questa natura, nel senso che l'esposizione finanziaria è stata storicamente molto bassa nel nostro paese e un rischio dovuto all'eccessiva esposizione sul settore delle carte di credito in effetti in Italia non è così pressante e non avrà bisogno di questo tipo di iniziative. American Express tra l'altro non ha comunicato il numero degli interessati né il totale dei conti delle sue carte e comunque paga una strategia di arruolamento senza freno di nuovi clienti che è stata condotta negli anni passati, che venivano abbordati anche negli aeroporti e perfino per strada. Insomma, una strategia che ovviamente poi si è ritorta contro alla società, non solo a questa, ma probabilmente a tutte quelle che operano nello stesso settore negli Stati Uniti, però anche per quello che ci riguarda, dottor Stefanini, in quanto a strategie di accaparramento di clientela nuova negli ultimi anni, non è che non ci siamo dati da fare. No, sicuramente. È chiaro che l'evoluzione dei sistemi di pagamento porta a far sì che il sistema finanziario proponga ai propri clienti degli strumenti di pagamento che siano sempre innovativi e diciamo che il mondo anglosassone ci ha fatto importare questo modello di carte revolving, chiamiamo così, che espongono al credito. È vero anche che il livello di accettazione di questo tipo di strumento in Italia è stato molto cauto. Noi siamo un paese storicamente dedicato al risparmio più che all'esposizione, quindi diciamo che il numero di clienti che sono dotati di questo strumento sono in effetti limitato e soprattutto è limitato il numero di clienti che fanno uso di questa carta e si espongono in modo irresponsabile. In realtà le cifre sono piuttosto interessanti perché ho una statistica che si riferisce al 2007 quando si registravano complessivamente quasi 14 milioni di carte revolving in circolazione, poi le attive sono molte di meno. Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori ed è anche responsabile per il comparto bancario e finanziario di questa stessa associazione, noi ci siamo occupati occupati molto spesso anche in un altro contenitore economico a salvadanaio di questo argomento e abbiamo più volte puntato l'attenzione sul fatto che sì, le carte possono anche essere in circolazione, ma bisogna comunque utilizzarle in maniera responsabile. Perché con la carta revolving non è così facile adottare un atteggiamento responsabile? Ma secondo il nostro osservatorio, per due ragioni. Da un lato perché innanzitutto sono delle carte di credito leggermente diverse dalle carte di credito tradizionali che abbiamo in mente, perché includono la funzione di rateizzazione degli acquisti e quindi diventa più difficile programmare i propri acquisti a rate, chiamiamoli così, rispetto magari a un normale credito al consumo o a un prestito personale attraverso il canale bancario. E dall'altro lato perché molto spesso sono state inviate queste carte proprio le società, le società finanziarie, le banche, le inviavano ai clienti che avevano aperto un prestito personale, un credito al consumo, e venivano messe a disposizione degli ulteriori crediti a queste persone, anche se in realtà il cliente non le aveva mai esplicitamente richieste. E in qualche modo ci siamo resi conto che poi sono state utilizzate proprio da chi poteva avere poi dei problemi a rimborsare. Ecco il pericolo, non tanto nel numero, perché effettivamente, questo va detto, ripeto, non neghiamo che non sia un fenomeno analogo a quello degli Stati Uniti, assolutamente no, e per fortuna. Ma innegabilmente è un fenomeno che, per quanto limitato, purtroppo riguarda proprio persone che poi hanno difficoltà a rimborsare gli acquisti. Quindi lei si trova d'accordo con il dottor Stefanini quando dice che siamo ben lontani da una bolla nel nostro paese in procinto di scoppiare a livello di sistema, però c'è all'interno di qualche nucleo familiare la tentazione di farsi prendere le mano, c'è stata quantomeno, e adesso qualche famiglia a rischio bolla c'è chi si trova oberato dai debiti a causa dell'utilizzo smoderato di questo strumento. Sì, che in realtà mi sento di dire, perlomeno ripeto, dall'osservatorio che ne abbiamo noi alla Lega Consumatori, comunque noi alle associazioni di tutela dei consumatori, non mi sento neanche di dire che sia stato un uso smodato legato, come dire, ad acquisti compulsivi, cioè io non credo proprio che queste famiglie siano andate acquistando beni griffati o cose di questo genere, ma purtroppo hanno utilizzato queste carte per l'acquisto di beni essenziali. Ma com'è possibile, dottoressa Anastasia, avvocato Anastasia, anche perché lei è un legale, che con la revolving si possa spendere al di sopra delle proprie possibilità? Comunque anche la revolving è una carta di credito e quindi sarà appoggiata ad un conto corrente che in qualche maniera viene alimentato. Se questo non è alimentato, se questo non ha la giacenza, la capienza, com'è possibile? Ma la carta revolving viene attivata. La carta revolving, nel momento in cui il cliente la riceve, la può attivare, così come noi invece consigliamo, nel momento in cui non si è interessati, di tagliarla e rispedirla alla società che l'ha inviata. Ma nel momento in cui la si riceve, la si può tenere nel cassetto per un certo periodo di tempo, non la si può utilizzare, si può fare quello che si ritiene. Nel momento in cui la si attiva, funziona, perché di fatto è una sorta di prestito personale. È un piccolo plafond, diciamo, è una linea di credito che viene data, messa a disposizione, perché, e poi il rimborso viene effettuato a rate, quindi non è detto che in quel momento ci debba essere la giacenza, perché il rimborso viene posticipato. Ecco perché l'utilizzo della carta revolving è più pericoloso dell'utilizzo di una carta normale, nella quale diciamo dopo 15 o 20 giorni dalla fine del mese viene fatto la debito sul conto, e quindi sul conto ci deve essere appunto la giacenza, come diceva lei. In questo caso no, perché è una scelta che il cliente fa insieme appunto alla società che emette la carta, di rimborsare gli acquisti nell'arco di un periodo di tempo che viene scelto, perché comunque c'è un minimo di rimborso percentuale rispetto all'importo dovuto, che può essere intorno al 3 o al 5%, e le rate appunto vengono calcolate su questa base, per cui sono rate molto piccole. Dottoressa Anastasi, avvocata Anastasi, dobbiamo chiudere, chiedo a lei, anzi prima comincio con Davide Stefanini, allora una guida molto breve e sintetica di accortezze per un utilizzo responsabile della carta revolving. Dottor Stefanini, visto che anche Visa è molto impegnata in questo fronte. Direi che un utilizzo consapevole di questa carta ovviamente parte da un'analisi effettiva delle proprie capacità di spesa. La carta revolving, come diceva giustamente l'avvocato, è uno strumento che, se usato non correttamente, può generare questo rischio di indebitamento eccessivo. Occorre ovviamente controllare l'estratto conto, verificare che le spese che si sono realizzate e che producono interessi siano ovviamente sempre alla nostra portata. Occorre ovviamente non eccedere in queste abitudini e far sì che le proprie abitudini di spese non cambino in modo drastico, proprio perché uno ha in tasca questo tipo di carta. Quindi prudenza come sempre. Grazie, io non riesco a far fare le raccomandazioni anche a Maria Stella Anastasi, ma il punto di vista dell'Associazione dei Consumatori lo abbiamo capito molto molto bene. Ringrazio entrambi per essere stati con noi a Soldi e Dintorni. Buona giornata, Alessandro. A Salvadanaio, ecco, oggi. I rischi sulla casa. Vedi che l'hai capita. Dimmi. I rischi sulla casa, come coprirsi dai danni all'abitazione. Le 8:33 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Il vertice straordinario dell'Unione Europea ha bocciato la proposta di un piano di interventi a favore dei paesi dell'est. Decisiva la posizione del cancelliere tedesco Angela Merkel. L'Europa interverrà solo caso per caso nei paesi a rischio di default. Veniamo in Italia, l'assegno di disoccupazione non è sostenibile, ci costerebbe 1,5 punti di PIL, così il premier Berlusconi boccia l'idea lanciata dal segretario del PD Franceschini, secondo il quale invece i soldi per l'assegno possono venire dalla lotta all'evasione fiscale, che si stima sia attorno ai 110 miliardi. Oltre 34.000 studenti si sono ritrovati il 5 in condotta nella pagella di metano. La novità, reintrodotta quest'anno dal ministro Gelmini, ha interessato soprattutto i ragazzi del sud. Nei licei 7 ragazzi su 10 hanno registrato almeno un'insufficienza. Nelle medie inferiori gli studenti con un'insufficienza sono il 46%. Infine il calcio finisce con uno spettacolare 3-3, il posticipo Inter-Roma di ieri sera, giallorossi in vantaggio di 2 gol, 3-1, poi raggiunti grazie anche a un rigore contestato su Balotelli. Milan in crisi continua, sconfitto 2-1 a Genova dalla Sampdoria, ma non ne approfittano dietro Fiorentina e Genoa, che non vanno oltre il pari. Da segnalare a Palermo nel 4-0 del Catania il gol di Mascara realizzato da centrocampo. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio al vertice straordinario dell'Unione Europea di ieri. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Il vertice europeo ha dimostrato che la velocità di reazione dell'Europa 27 è insufficiente per gestire una crisi economica così vasta e profonda. Ma sono stati soprattutto i paesi dell'est a non voler essere trattati tutti allo stesso modo, con un piano di salvataggio che gli ungheresi stimavano in 190 miliardi di euro. La Merkel, come sapete, ha detto no, si procederà caso per caso. Slovenia e Slovacchia, per esempio, non ne hanno bisogno, grazie all'euro, che appare oggi non solo una moneta forte, ma anche l'unico rifugio che garantisca un minimo di protezione contro la caduta dei redditi. Ne sanno qualcosa anche gli inglesi. E meno male che l'Italia non è rimasta fuori, come qualcuno avrebbe voluto. Certo, si poteva negoziare un cambio migliore ed evitare i rincari ingiusti che ci sono stati, ma pensate che cosa accadrebbe se oggi avessimo ancora la lira. Sarebbe in balia delle onde come le piccole monete dell'est, oggi in tempesta. Buona giornata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, ci ritroviamo domattina alla stessa ora. Sono le 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Per chi capitasse oggi dalle parti stamattina, soprattutto di Arcore o di Gemonio, che poi, che per chi non lo sapesse, come abbiamo detto prima, sono le residenze anche di Silvio Berlusconi e del leader della Lega Umberto Bossi, oggi si prevede traffico intenso. Se soprattutto se vi capita di vedere dei trattori in giro, non vi spaventate. Io saluto Francesco Bettoni, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Presidente di Confagricoltura Lombardia, uno delle anime di questa protesta degli allevatori sulle quote latte. Ancora le quote latte, perché protestate, Bettoni, con i trattori, e siete vicino ad Arcore, mi pare? Sì, siamo a pochi chilometri da Arcore, innanzitutto. Grazie a lei per l'attenzione che dedica a questo problema. Siamo oltre 1500 allevatori con i trattori che stanno marciando su Arcore, e circa 10.000 ci raggiungeranno con i mezzi tradizionali. Accidenti, la marcia su Arcore, perché fate la marcia su Arcore? Ma guardi, perché il decreto che passa sotto il nome di decreto Zaia, che sta assegnando, assegnerà delle nuove quote latte agli allevatori, parte da una posizione di grossa disuguaglianza e direi incomprensibile accondiscendenza verso una minoranza di allevatori che in questi anni hanno abbondantemente splafonato e soprattutto che hanno accumulato per multe di oltre 1.600.000.000 che lo Stato italiano, quindi tutti i cittadini, hanno pagato ma che dovevano essere invece pagate da circa 4.000 allevatori italiani. Insomma, sostanzialmente ci sono le quote latte che per anni sono state violate, insomma splafonate da alcuni allevatori. C'è un decreto che tra l'altro andrà in discussione alla Camera, al Senato questa settimana, per questo voi protestate, che sana questa situazione in un modo che a voi non piace, cioè dice fa una sorta di sanatoria, una sorta di condono per pochi, per quelli che hanno violato le regole, e invece tutti quelli che ne hanno rispettate no. Questo sostanzialmente no, è il senso della vostra. La cosa è molto semplice. 41.000 allevatori hanno rispettato in questi 15 anni le norme italiane e comunitarie, si sono indebitati per comprare le quote per rimanere all'interno del sistema loro produttivo, delle quote loro assegnate. Una sparuta minoranza che rappresenta circa il 3% ha voluto fare continuamente il furbo e da 15 anni a questa parte non ha mai voluto adempiere le regole. Però il ministro Zaia dice che in realtà questo decreto vale per 17.000 aziende su 40.000, cioè circa il 50% in realtà. In realtà le quote latte verranno attribuite a solo il 3% delle aziende, che sono un migliaio, le stesse che hanno a loro carico l'80% delle multe. Allora, mi lasci andare, visto che voi siete quasi ad Arcore, poi so che alcuni partiranno verso Gemonio. Io voglio salutare l'onorevole Fabio Rainieri, buongiorno. Lega Nord, nonché segretario della Commissione Agricoltura, nonché io, onorevole Rainieri, le vorrei fare ascoltare un intervento di un ascoltatore che è intervenuto alla Zanzara venerdì, da Giuseppe Cruciani, per annunciare insomma questo tema di oggi, e sentite cosa ha detto questo ascoltatore, perché la riguarda, Rainieri, senta. Una delle persone che beneficia di più di questo decreto è l'onorevole Rainieri, che è segretario della Commissione Agricoltura alla Camera per la Lega Nord. In che senso ne beneficia, mi scusi? Ne beneficia perché è uno storico leader di coloro che non hanno rispettato la legge, che si sono schierati a loro tempo coi trattori lungo le autostrade, che hanno buttato liquame bloccando il traffico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, onorevole Rainieri, lei è anche un produttore di latte, insomma, adesso è onorevole, però è vero che ha violato, lei fa parte di quelli che non ha pagato le multe in passato? Allora, intanto vorrei rispondere al signor Antonio, sì. Il conte Omati, che ha chiamato alla Zanzara l'altro giorno, che lei ha appena fatto sentire l'intervista. Io non ho mai violato la legge, primo perché ho fatturato tutto il mio latte prodotto, secondo perché ho pagato le tasse e terzo non ho pagato ancora le multe, perché delle sentenze di un tribunale, e se in Italia vige una giustizia, i tribunali sono coloro che devono farla rispettare, mi hanno concesso delle sospensive, in alcuni casi anche degli annullamenti per delle irregolarità nel sistema. Io non so se il conte Omati, grosso proprietario terriero della provincia di Parma, e quindi non ha il problema di fare l'allevatore, ma ha ben altri interessi, come del resto anche il signor Bettoni, che poi andremo a dire quanti incarichi ha nel suo carnet, dovrebbero sapere che nel lontano 24 aprile del 97 terminò i lavori una commissione d'indagine voluta dall'allora presidente del Consiglio Romano Prodi, che nelle conclusioni disse questo: gravi ed evidenti ed inconfutabili responsabilità dell'UNALAT e degli retrostanti associazioni professionali di categorie maggiormente rappresentative, sì, con diretti CIE e Confagricoltura, cioè quelle che oggi protestano, non la Coldiretti ma la CIE e la Confagricoltura. Sì, esatto. Coldiretti ha capito che non, sì, va in non protesta. E venga al dunque, cioè qual è la contestazione? La responsabilità nella gestione del sistema quote latte. Cioè la responsabilità è loro. Ma lei che risponde alle accuse di Bettoni, a dire si fa un decreto per pochi invece che si sana una posizione Che Bettoni non sappia leggere bene i numeri, perché gli splafonatori in Italia su 41.000 aziende sono oltre 17.000. Oltre 17.000, non sono i 1.000 come qualcuno va dicendo. In quello che dice Zaia. Bettoni, cos'è questa guerra di numeri? Però non se ne esce più. Allora, se uno dice che sono 1.000, l'altro 17.000. 16.000 le multe le hanno pagate, le stanno pagando. A parte il fatto che l'onorevole Rainieri non deve confondere i fatti personali con i fatti economici e di strategia. Lei Bettoni sa che viene identificato in questi giorni come il nemico. È passato. Ma sono orgoglioso perché io mi sto battendo per la legalità e la giustizia. C'è stato un volantino, Bettoni, c'è stato un volantino distribuito in cui lei è citato nome e cognome con quelle cariche che Rainieri ci ha detto dicendo. Sono tutte cariche elettive di cui mi onoro, e essendo stato eletto dai cittadini liberi mi onoro di avere questi incarichi che mi consentono di fare meglio il mio lavoro e non sono incarichi politici, mi dispiace per il signore Rainieri. Onorevole Rainieri, lei conferma insomma che il decreto c'è disinformazione, come dice Zaia, non si leggono bene i numeri, in realtà non è per pochi e passerà così, insomma andrà avanti così. Assolutamente sì, anche perché no, non è che passerà così, sono state accolti degli emendamenti in Commissione Agricoltura al Senato che vanno nella direzione che hanno richiesto Coldiretti e altre associazioni e le regioni. Questo per cercare di migliorare quello che è l'impianto del decreto. Però sui numeri bisogna continuare a dire, perché questa è la sostanziale poi verità, che come si ripete non sono pochi e gli altri hanno pagato le multe, dei 17.000 che avevano le multe, quelli che sono rimasti, grazie a una compensazione fatta dall'allora ministro Alemanno con la legge 119 del 2003, questa compensazione obbligava coloro che avevano fatto ricorso ai tribunali a pagare tutta la multa dei 17.000, quindi non è vero che questi hanno pagato. Allora, le chiedo, onorevole Rainieri, perché abbiamo un minuto, a lei velocemente, ma è vero che in passato ha buttato liquami, ha fatto parte, insomma ha fatto dei blocchi? Assolutamente fatto... no. Liquame, per quanto riguarda i blocchi sì. Li facemmo, ma per giusta causa, come uscì dalle relazioni della commissione di indagine voluta dal presidente del Consiglio Romano Prodi. Scusi, una precisazione, sì, io vorrei che qualcuno andasse a contare i trattori che sono in viaggio, non sono 1.500, ma succede come a Parma, che il signor Conte Antonio Matti è intervenuto, a Parma sono 24 i trattori. Ma lei lo conosce, noi lo conosciamo come Antonio che ha chiamato, lei continua a fare il nome. Ma io chi è quella persona, avere il coraggio di dare nome e cognome e quello che fanno nella vita, questo è un conte con tanto di proprietà a Parma e Fidenza. Lei noi non lo sappiamo, insomma, se ne assume la paternità di questa cosa, noi lo conosciamo come Antonio, come tanti che chiamano, ha lasciato il numero, è stato richiamato, insomma. Per concludere invece, da Bettoni, 10 secondi, che volete fare? Cioè, dopo la marcia che fate? Cioè, oggi... Mi perdoni, sì. Ma il decreto Zaia è stato clamorosamente bocciato da tutte le regioni per appunto il fatto che gli allevatori devono rinunciare a tutti i contenziosi in essere. Questo è condizio sine qua non ed è il motivo per quale noi stiamo marciando su Arcole. E poi da domani anche a questo signore al contenzioso. Allora, questo è vero, le regioni hanno detto no, hanno dato il loro parere negativo. Detto questo, domani che fate? Cioè oggi la marcia, dipende, e domani? Dipende da se avremo risposte. Probabilmente se non avremo risposte marceremo anche su Roma. Ah, benissimo. Oddio, benissimo, non lo so. Trattori oggi se ne incrociate, non spaventatevi, non è un colpo di Stato o tentativo del genere. Grazie Francesco Bettoni di Confagricoltura Lombardia e l'onorevole Fabio Rainieri della Lega. Allora, 8:48 minuti, tra una settimana parte la rivoluzione alla Camera, si vota contro i pianisti, cioè per scongiurare i pianisti, con le impronte. C'è chi ha già dato le impronte, c'è chi le darà questa settimana, c'è chi non le darà proprio per niente. Io, onorevole Francesco Nucara, buongiorno. Buongiorno. Lei è segretario nazionale del Partito Repubblicano, eletto nel Popolo della Libertà. Lei le impronte, mi pare di capire che non le dà per niente. No, non le ho già date, sono andato, l'ho dichiarato, mi sono preso il mio tesserino per votare, ma dico che all'inizio, quando sembrava che dare le impronte fosse obbligatorio, io ho già dichiarato che non le avrei date comunque. Massimo che mi poteva succedere che perdevo la diaria, ma avrei creato qualche problema al Presidente della Camera alzandomi tutte le volte che ero presente in aula e dicendo come votavo e volevo sapere poi come registravo il mio voto. E che perché non le dà? Una questione di principio? Che non... Certo che è una questione di principio, io non ho mai votato, io sono stato deputato dall'83 al 94, dal 2006 a oggi non ho mai votato per nessuno e nessuno ha mai votato per me. Cioè dici, io il pianista non l'ho mai fatto e quindi... Ma credo che sia anche veramente una questione di dignità e anche una questione di principio basilare. Io sono stato e sono contro la presa delle impronte digitali dei bambini rom, figuriamoci se do le mie. Cioè, che poi queste non sono le impronte, sono le minuzie, non ho capito le bene. Minuzie. Noi facciamo cose importanti alla Camera, delle minuzie non ci dovremmo interessare. Vabbè, ma battuta a parte, comunque lei le impronte non le dà, che succede? Cioè, non le ho già date. Guardi che tra una settimana il Presidente Fini ha promesso di dire, va bene, è volontario, ma chi non le dà io lo faccio sapere. Insomma, no, certamente, lei lo sta dicendo adesso, quindi. Lo dico io, non c'è bisogno che sia uscito sui giornali, lo sto dicendo a volte radio, cioè che lo dica pure il Presidente Fini, il suo legittimo diritto. No, è chiaro. Forse il Presidente della Camera, oggi a fine, sanno benissimo chi fa il pianista, lo vedono, siccome io sono seduto in alto, il mio posto è in alto, vedo anch'io chi vota per un altro, come lo vedo io, lo vede il Presidente della Camera, forse il Presidente della Camera, Fini, come Bertinotti, come Casini, perché il problema è annoso, dovrebbero aver dovuto pubblicare i nomi dei pianisti. Ah, così insomma, che si facevano votare, così era più facile. Invece di questo sistema. Non è che a me mi espongono al pubblico ludibrio perché non do le. No, ma certo. Onorevole Nucara, mi faccio andare anche. Voglio salutare l'onorevole Giancarlo Lehner. Buongiorno, sempre Giancarlo, il proprio Bertà. Lei le impronte? Io le ho date, sì. Anche se io pure sono uno che non ha mai fatto il pianista, né ha mai avuto il bene di un collega pianista. Anche perché accanto a me non c'è nessuno. E come? In che senso? Ah, l'ha messa a lato. No, come non c'è nessuno? Anche volendo. Tra l'altro non sono stato mai assente un giorno, quindi posso parlare con... Sì. Ma lei ha scritto sul libro con un certo allarme a dire attenzione, caro Silvio Berlusconi, perché questa cosa delle impronte rischia di creare dei problemi al Popolo della Libertà. In che senso? Voglio dire, il problema in realtà non è tanto il pianista o le impronte, il problema sono gli assenti, cioè il problema sostanziale è che noi abbiamo una maggioranza bulgara alla Camera, no? E spesso votiamo, si riesce a superare le opposizioni magari per tre voti, per troppi assenti, a volte andiamo sotto, cioè il problema vero è questo. Ci sono troppi assenti e questo poi induce naturalmente anche il pianista a esercitare a fare il pianista, la sua arte. E il problema è anche i doppi incarichi. Lei si batte a dire, c'è chi è ministro è onorevole, sottosegretario è onorevole, a dire dimettetevi. Certo, fate entrare in Parlamento forze fresche che almeno avranno l'entusiasmo di stare in aula, insomma, no? Di vivere questa esperienza nuova. In quanto poi alle impronte, ma insomma, che ormai sono minuzie, quindi sono quisquiglie irrilevanti, sì. C'è questo lessico politichese che è straordinario, no? Perché edulcora tutto. Ma io le ho date, insomma, senza alcun problema, nel senso che non credo che leda la mia dignità, io credo che a ledere la dignità è per esempio il collega che si è fatto largo magari anche a colpi duri pur di essere eletto in Parlamento e poi invece non ci viene. Questo è questo lede, no, dignità del Parlamento. Intanto, direi. Onorevole Nucara, che prevede per settimana prossima? Ha detto che il sistema credo sia costato 300.000 euro, ma insomma questo è tutto abbastanza trasparente e dichiarato. Che prevede settimana prossima? C'è la Lega, credo, che è il gruppo più restio a dare le impronte. Alcuni hanno già dichiarato che non le danno, loro pensano che non bisogna darlo, poi probabilmente ci sono pressioni per farle dare. Il problema che dice il collega Lehner è molto più complicato, cioè la gente non viene in Parlamento perché il Parlamento non serve praticamente più a niente. Vabbè, però costa. Il problema è una specie di truffa: se io voto per un collega, posso votare in quanto il collega mi ha dato un tesserino. Perché non io voto per collega perché quel giorno non c'è. Quel giorno non c'è e ha dato a me il tesserino da infilare nel mio posto per poter votare. E vede che le impronte servono. E vede che le impronte servono, perché adesso non basterà più il tesserino. Io ho detto, sanno tutti, lo sa pure Venere, io li vedo perché sto seduto in alto, li vedo. Come li vedo io, a maggior ragione, per il Presidente della Camera che c'ha davanti, i segretari della Camera, i commessi, li vedono tutto. Mettessero a me, perché mi mettono sui giornali, conservo la dignità di un parlamentare che non può essere sottoposto alle impronte digitali per poter giustificare la sua onestà. Va bene, io vedremo, mancano 7 giorni, c'è tempo per metterle questa settimana, ma intanto la Camera so che è chiusa questa settimana, perché proprio da oggi parte, da questo mese di marzo, questa nuova organizzazione dei lavori della Camera, per cui una settimana di chiusura dei lavori, che è questa, dunque Camera chiusa, per coltivare i rapporti sul territorio, che poi insomma in una campagna elettorale, in una legge elettorale che ci porta in Parlamento le persone per cooptazione, cioè non so cosa ci sia da coltivare come coltivazione del territorio, dell'elettorato, però di fatto la Camera è chiusa sta settimana, da lunedì, martedì prossimo vedremo come va a finire questa cosa delle impronte. Io vi ringrazio sia l'onorevole Nucara, l'onorevole Lehner e in chiusura i ringraziamenti a Laura Marchesi ed Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco Giuliano Ferrara parla di Obama, insomma la proposta più tasse per i ricchi, questa è la cosa forte che ha detto Obama la scorsa settimana, di questo si parla e noi ci ritroviamo con 24 Mattino domani.